allora le 11:38 minuti primi, come detto, ultime pillole sugli Stati Uniti d'America prima delle elezioni della prossima settimana. Siamo al telefono con Guido dall'altra parte. Buongiorno intanto, ci senti bene? Ciao, buongiorno a voi, mi sentite? Perfettamente, perfettamente. Okay. Allora, noi oggi insomma avevamo così qualche argomento di cui parlare, saltabeccando di qua di là, ma insomma i temi sono quelli che ci sono stati cari negli ultimi mesi. Io direi di cominciare da un libro piuttosto interessante, insomma, che stai leggendo, analizzando, facendo una recensione che può essere utile per la comprensione di quello che abbiamo affrontato nelle puntate precedenti, no? Sì, dunque è un libro che è uscito in realtà da un mesetto negli Stati Uniti, di cui si parla abbastanza nel dibattito pubblico americano. È scritto da una giornalista che si chiama Joan Walsh, che è stata responsabile direttrice della caporedattrice, oggi è inviata speciale di Salon, che è una rivista online di San Francisco nata a metà degli anni 90 e che è una delle più lette negli Stati Uniti. Parliamo di milioni e milioni di contatti già registrati, insomma, in questi anni. E il libro si chiama What's the Matter with the White People, insomma la mia pronuncia pessima, comunque significa sostanzialmente qual è il problema con i bianchi. Diciamo è un libro abbastanza interessante per il contesto ovviamente in cui esce, perché prende una delle si occupa di uno degli argomenti che sicuramente fanno da sfondo all'elezione del 6 novembre. Siamo ormai prossimi, parliamo di martedì, nel senso che ci sono due elementi che credo si possano indicare tra quelli prioritari, perché se è chiaro che gran parte del voto degli afroamericani, quelli che andranno a votare, quelli che non sono rimasti troppo delusi da Obama, non potrà che andare a Obama, insomma il suo sfidante repubblicano è indicato come in grado di raccogliere tra l'1 e il 2% forse di voto nero, quindi praticamente nulla, e oltre il 90% invece di voto bianco, cioè sulla percentuale complessiva dei suoi voti. È chiaro che diciamo gli elementi importanti che decideranno di queste elezioni, tutti gli analisti e gli istituti anche di sondaggi dicono sono essere due, sostanzialmente dal punto di vista della composizione del voto: il voto dei latinos, gli ispanici, che sono fortemente presenti in alcuni degli cosiddetti swing state, cioè gli stati che oscillano insomma tra un candidato e l'altro, in particolare in questo caso il Nevada e la Florida, e il voto dei blue collar, della classe operaia bianca. In America c'è una definizione un po' incerta, i confini sono un po' incerti tra la middle class e la working class, nel senso che in realtà le famiglie degli operai specializzati prima della crisi un tempo erano quasi considerate middle class, perché erano in grado magari di mandare i figli al college, no? Quindi diciamo quella sorta di ceto medio-basso, diremmo in Italia, in Europa, fatto da redditi da lavoro dipendente, ecco, che invece potrebbero fare la differenza nell'altro stato definito come decisivo, cioè l'Ohio, che è lo stato che deve essere vinto, si dice nelle analisi di questi giorni, da chi voglia arrivare alla Casa Bianca. Nessuno che voglia diventare Presidente degli Stati Uniti può farlo senza aver vinto in Ohio. Ultima precisazione, quando diciamo vincere, in realtà non parliamo dei voti popolari, perché potrebbe accadere che il candidato che raccoglie il maggior numero di voti popolari, cioè che piglia il più alto numero di voti espressi dai cittadini statunitensi, non viene però eletto presidente, perché ad essere eletto presidente si è eletti presidente in base al voto dei cosiddetti grandi elettori, ce n'è un certo numero per ogni percentuale di milione di abitanti in ogni stato, che vengono conquistati in un altro modo, vale a dire si conquista lo stato e si piglia l'intero pacchetto dei voti dei grandi elettori. A quel punto si fa la differenza, anche se il voto complessivo degli elettori su tutto il piano nazionale è superato da un altro candidato. Quindi insomma è un meccanismo un po' burocratico e un po' poco chiaro dal punto di vista della trasparenza, che però dice che se io vinco in molti stati più piccoli dal punto di vista della popolazione e complessivamente quindi piglio più voti, ma poi perdo in uno stato che da solo fa un certo numero di milioni di abitanti e che quindi produce più grandi elettori, io posso non arrivare alla Casa Bianca malgrado abbia vinto milioni e milioni di voti in tanti stati, ma non abbia vinto in quei due o tre che hanno un numero di grandi elettori superiore. Quindi questo è un po' il quadro. Allora, detto tutto questo, il libro, appunto, di cui dicevamo, parla di che cosa è successo alla white people, ai bianchi. La scrittrice è nata a 58 anni, è nata in una famiglia cattolica irlandese di New York, per metà di New York e per metà di Milwaukee, e ha visto in qualche modo all'interno della sua stessa famiglia prendere corpo quello che è una delle caratteristiche del voto americano e che ha fatto, potrebbe fare, la differenza, appunto, in particolare in questo swing state che è l'Ohio, vale a dire il fatto che quelli che noi chiameremo proletari o i piccolo borghesi, i medio borghesi di questo stato bianchi, potrebbero votare per un candidato repubblicano che apparentemente non fa gli interessi del loro ceto, del loro pezzo di società, ma potrebbero votare addirittura contro i loro stessi interessi materiali, ma in nome di valori simbolici e quant'altro. Non c'è solo il razzismo in quanto tale, cioè non è solo che gli operai bianchi votano per la destra perché non vogliono che i neri un tempo e le minoranze, soprattutto gli ispanici oggi, godano dei loro stessi diritti. Non c'è solo questo, c'è anche un'idea complessiva di che cosa deve essere lo Stato. Allora, il racconto che fa John Walsh è molto interessante perché in particolare parte da un'immagine, una sorta di fotografia di un evento che da noi non è molto noto, ma che invece rappresenta bene il tipo di vicenda che è in corsa, in cui è in corso appunto il mondo del lavoro negli Stati Uniti. Lei racconta di una manifestazione nel maggio del 1970 nella parte bassa di Manhattan, quindi stiamo parlando intorno alla zona di Wall Street, una manifestazione pacifista che avveniva a 3-4 giorni da un massacro alla Kent State University dell'Ohio, dove la Guardia Nazionale aveva sparato sui pacifisti, aveva ammazzato 4 ragazzi. C'era ancora la guerra del Vietnam, in quei giorni l'amministrazione Nixon, guidata da Nixon, il segretario di Stato Henry Kissinger, aveva portato le truppe oltre il confine cambogiano per aggirare i Viet Cong, quindi aveva ulteriormente, anziché ridurlo come chiedevano i pacifisti, ampliato il fronte del conflitto nel sud-est asiatico. Questa manifestazione pacifica di prima mattina intendeva appunto manifestare intorno a Wall Street. Dopo poco che si erano radunati, questa migliaio di giovani, prevalentemente studenti, furono attaccati da 200 operai che erano scesi dai cantieri della zona, erano operai edili organizzati dalla loro sigla sindacale. Stavano molti di loro lavorando al World Trade Center, che allora era in costruzione, e brandendo bandiere a stelle e strisce e cantando slogan del tipo ama l'America o vattene, attaccarono con bastoni, spranghe, eccetera, gli studenti. Ci fu una rissa violenta, uno scontro violento per un paio d'ore e ci furono oltre 70 feriti. Questa vicenda è ricordata nella storia americana, nella storiografia americana, col nome di Hard Hat Riot. Hard Hat è un termine con cui si descrivono sostanzialmente i caschi da lavoro, cioè il fatto che questa rivolta, questo riot, fu provocato dagli operai che appunto con i loro caschi tradizionali caratteristici appunto erano scesi dai cantieri per proteggere, secondo quello che a loro sembrava la patria, insomma, no? Cioè, per dire che loro erano contro questi giovani cappelloni che volevano distruggere il paese in cui loro credevano. Questo racconto John Walsh lo mette, diciamo, al centro di questo libro, perché in quello scontro lei aveva il padre democratico che in qualche modo stava dalla parte degli studenti pacifisti, anche se magari non amava troppo i loro modi definiti nichilisti, cioè il fatto che in qualche modo erano estremisti, diremmo noi oggi, e dall'altra parte aveva uno zio, anche lui democratico, anche lui elettore democratico, fino a quella stagione, insomma, la gran parte dei bianchi al nord votava per dei lavoratori, votava Partito Democratico, che invece era in prima fila nello scontro, una sorta di guerra civile in casa. E che cosa rappresentava questo scontro? Rappresentava un po' la situazione che poi la giornalista racconta all'interno di questo suo libro, cioè che mentre fin dalla metà degli anni 60 nel sud, dove il Partito Democratico era nato un secolo prima, i poveri democratici, cioè gli elettori dei ceti più bassi che avevano fino allora sostenuto il Partito Democratico, erano passati in massa con il Partito Repubblicano all'indomani della promulgazione delle leggi sul diritto di voto, i diritti civili degli afroamericani, perché quelle leggi erano state varate da un presidente democratico che era Lyndon Johnson, che aveva fatto era stato eletto subito dopo l'assassinio di Martin Luther King nel 1963, e quindi lì partita persa, come dire, un intero blocco sociale passato d'amblè dai democratici ai repubblicani, ed è così ancora oggi, cioè gli stati del sud degli Stati Uniti sono una roccaforte, diciamo, sono la base elettorale del Partito Repubblicano. Solo adesso comincia, laddove ci sono appunto soprattutto nuove minoranze, in particolare gli ispanici, a cambiare qualcosa. Al nord le cose erano molto diverse, il nord aveva sostenuto il movimento per i diritti civili, l'alleanza, diciamo, che legava i sindacati, i settori liberali, il Partito Democratico ai movimenti degli afroamericani di Martin Luther King era molto forte. Questo però fino alla seconda metà degli anni 60, quando in realtà il movimento dei diritti civili finisce il proprio ciclo e la protesta nera si trasforma in rivolta. Watts, eccetera, cominciano, cioè, gli scontri, i riot nelle grandi città, e in qualche modo all'idea del movimento appunto non violento si sostituisce l'idea del Black Power. Questo da un lato, che diciamo in qualche modo rompe lo schema narrativo con cui i bianchi dei ceti popolari avevano seguito la vicenda dei neri. L'altro elemento è che cambiano le cose in casa. Per dare un elemento, diciamo, di informazione, nel 1970 un giudice di Boston decide di dare attuazione completa alle norme varate ormai da molti anni, se non passate almeno 5, per appunto i diritti civili dei neri, e vara la famosa, diciamo, una storia abbastanza nota negli Stati Uniti, che è detta del busing, perché i bus, gli autobus venivano usati per mescolare, diremmo così, gli studenti, cioè venivano portati bianchi nelle scuole nere e neri nelle scuole bianche, per evitare che, anche se non c'era la segregazione come poteva avvenire in Alabama, anche nella civile Boston bianchi e neri non studiassero assieme. Beh, che cosa succede? Succede che si scatena una campagna molto violenta, molto radicale, animata dalle famiglie, spesso le famiglie dei lavoratori del ceto medio. Boston è una capitale, diciamo, degli irlandesi d'America, quindi sono prevalentemente irlandesi, prevalentemente cattolici, ma finiscono per avere, diciamo, degli atteggiamenti ben poco cristiani, attaccano gli autobus, ne bruciano, addirittura si mette di mezzo il Ku Klux Klan e comincia a fare delle azioni terroristiche. Ma si tratta di una mobilitazione che non ha una base, come dire, neonazista, non nasce in un luogo in cui sono forti i sentimenti razziali, nasce in un terreno, diciamo, di tradizione democratica, su famiglie di lavoratori appunto del ceppo irlandese, che era stato in passato oggetto delle stesse, non magari delle stesse forme di razzismo, ma di discriminazioni molto forti, talvolta addirittura paragonabili a quelle subite dagli afroamericani. In questo contesto, in questo cambio di clima, si inserisce la figura di Richard Nixon, che verrà eletto la prima volta presidente nel 68 e verrà poi rieletto nel 72 e dovrà scappare con la coda tra le gambe soltanto perché inseguito dallo scandalo del Watergate, che praticamente sta l'aria e capisce che se appunto nel sud si tratta di coltivare lo spirito di revanche dei bianchi a cui i diritti, soprattutto dei più poveri, a cui diciamo l'emancipazione dei neri ha tolto il fatto di essere il penultimo diciamo scalino, no, della scala sociale, a quel punto bianchi e neri poveri sono praticamente uguali e quindi chiaramente sì, quella popolazione è pronta a recepire dei segnali fortemente razzisti, quindi il Partito Repubblicano li conquista varando la cosiddetta Southern Strategy, che prevede il fatto di evitare in qualche modo il più possibile con una serie di espedienti burocratici che le norme di attuazione delle leggi sui diritti civili vedano effettivamente la luce. Al nord il progetto è molto più complesso. Che cosa fa Nixon? Nixon propone un'idea di etnicità bianca che non passi più soltanto per la definizione degli WASP, cioè degli anglosassoni di origine protestante, ma includa tutti i bianchi, compresi non solo gli irlandesi, non solo i polacchi, non solo i greci, eccetera eccetera, ma anche quegli italiani di cui fino agli anni 50 perlomeno non tutti erano certi che fossero bianchi, no? È celebre questa idea che non si sapeva, nella definizione razziale non si sapeva bene dove mettere questi bianchi, e infatti venivano abbondantemente linciati fino agli anni 20 e 30 al pari dei neri. Quindi Nixon apre questa idea di appartenenza all'identità etnica bianca anche ai bianchi non di estrazione anglosassone, e nei fatti che cosa fa? Arruola molti appartenenti alle minoranze provenienti appunto dall'Europa. E l'altro elemento è che per la prima volta intorno al 68 lui parla esplicitamente dell'esistenza di una maggioranza silenziosa, termine che poi per noi è diventato diciamo molto celebre anche in decenni certo. successivi, cioè l'idea che ci sia una parte della popolazione che magari ha anche sostenuto i diritti dei neri all'emancipazione, ma che poi diciamo in qualche modo si ritrova stordita nel clima, nell'epilogo di questa vicenda alla fine degli anni 60, cioè le rivolte urbane, la radicalizzazione del movimento contro il Vietnam, l'emergere dei movimenti per i diritti civili degli omosessuali e in generale diciamo il tema delle controculture giovanili, cioè del cambiamento profondo della società. È in quella stagione che nasce l'idea e anche il corpo diciamo di quest'idea, potremmo dire, che l'elettorato popolare sia un elettorato socialmente conservativo, si dice in inglese, cioè sia un elettorato che magari vuole l'emancipazione dal punto di vista del lavoro, vuole contratti collettivi, vuole i sindacati, vuole gli aumenti, eccetera, ma che dal punto di vista dei valori voglia una società stabile che difende fortemente i valori patriottici. Perché? Perché quei valori, quell'idea di appartenere alla grande nazione americana era un mito che gli immigrati portavano con sé fin dall'Europa. Gli italoamericani sono diventati nel corso dei decenni da appunto un gradino poco più su dei neri fino a diventare i campioni di questa difesa dell'identità bianca. Spike Lee ha raccontato di questi scontri tra neri e italiani a New York, ci sono stati anche degli omicidi da parte di giovani bianchi italoamericani che hanno ucciso, che ne so, un nero che aveva sconfinato, no? Mm-hmm. nel loro quartiere. Ecco, questo è il quadro che compone questa giornalista Joan Walsh, e che dalla stagione di Nixon, la Nixonland come veniva definita, arriva fino ad oggi per dirci: questo scenario è ancora quello su cui falleva il Partito Repubblicano, e forse solo con Obama nel 2008 per la prima volta i democratici sono riusciti davvero un pochino a metterlo in crisi. In realtà avevano fatto qualcosa del genere con Jimmy Carter e con Bill Clinton, guarda caso due candidati, uno della Georgia e l'altro dell'Arkansas, cioè due presidenti sudisti che in realtà non avevano recuperato tanti bianchi del nord, ma una parte dei bianchi del sud. Obama nel 2008, prendendo i voti degli operai licenziati dalle grandi industrie automobilistiche in Ohio, è riuscito in qualche modo a invertire questa tendenza, cioè a dire alla gente votate per i vostri interessi indipendentemente dai valori, indipendentemente dal colore della pelle. È una scommessa. Questo libro spiega come in realtà la storia degli ultimi 40 anni di vita americana sia profondamente segnata da questo elemento, sia un elemento che ritorna e sia un elemento che in qualche modo, come dice quell'immagine dello scontro tra, diciamo, i bianchi con i capelli lunghi e quelli con i capelli corti e i caschetti da operaio nel 1970, è una guerra civile, come dire, su valori sociali e culturali, cioè quella parte di proletariato bianco che aveva anche sostenuto il diritto dei neri ad essere cittadini a parte uguale, in qualche modo poi rivendica però per sé un primato. La stessa cosa accadrà con le leggi sull'affirmative action, cioè non è possibile che qualcuno che è stato disagiato come me, perché io magari ero un immigrato italiano, un immigrato greco, oggi abbia un aiuto dallo Stato. E quindi nasce questa retorica lungo questi decenni dell'idea che siano i bianchi poi alla fine a essere quelli per cui lo Stato fa di meno, che corrobora tutta la politica dei repubblicani fino ad oggi, quando Romney dice il 47% della gente che vive qui vive di sussidi. Che cosa vuol dire? Dice a te, lavoratore bianco, che con i tuoi soldi, con le tue tasse, lo Stato federale paga la scuola agli ispanici o ai neri, ai bambini asiatici. È questo che vuoi, lo dice tra le righe, ma è il portato estremo di questa storia iniziata molti anni fa. Per cui diciamo che è un libro molto interessante, anche perché dice i democratici sapranno guardare dentro il disagio della classe lavoratrice bianca, non dicendo solo sono dei razzisti, ma cercando di capire anche perché le paure, che so, della delocalizzazione, della perdita del lavoro si tramutano in sostegno a magari al miliardario Romney, oppure se dicono solo sono dei razzisti e li trattano con superficialità, con disprezzo, quei voti non ritorneranno mai al Partito Democratico e senza quei voti come dire, si perderà per sempre il potere. Lo sapremo martedì se il pronostico di Walsh, cioè che Obama riuscirà a recuperare quei voti bianchi poveri, sia concreto o meno. Senti, questo libro sarà disponibile in versione italiana prima o poi, oppure... Questo non lo so. No, nel senso che francamente se ne è parlato per anticipare chi ci chiamerà, ecco. No, questo è chiaro. Il problema è che non so, perché se ne parla molto negli Stati Uniti, ma essendo uscito da un mese forse è ancora presto, e ho come l'impressione che sia una storia molto americana, tutto sommato, e quindi forse no. Però ce ne sono altri, diciamo, sul tema che sono disponibili, insomma. Va bene. Senti, Guido, a corollario, diciamo, di questo libro, poi c'erano altre due cosette da raccontare, insomma, sempre relativamente alla campagna elettorale e non solo. Una dal profondo sud, appunto, degli Stati Uniti, e poi l'altra, per chiudere in bellezza, relativa alla notizia la notizia principale della settimana scorsa, ovvero sia l'uragano Sandy che si è abbattuto sulla costa orientale statunitense. Prima si era abbattuto anche sui Caraibi, ma lì, diciamo, ha fatto meno notizia, e poi sulla costa orientale vedremo, ci racconterà, insomma, che dietro c'è qualcosa di più rispetto alla semplice madre natura. Sì, dunque la prima notizia viene dalla contea di Maricopa, Arizona, perché il 6 novembre non si vota solo per le presidenziali, si vota per la Camera e il Senato e per molti governatori e per molti posti pubblici. Ci sono parecchie diciamo, incarichi che negli Stati Uniti sono elettivi, tra cui quello dello sceriffo, e in quella contea è sceriffo ormai da parecchie legislature Joe Arpaio, noto, diciamo, per avere la mano parecchio pesante con i cosiddetti immigrati clandestini e con i detenuti delle carceri, appunto, della contea, che vengono vestiti con gli abiti, diciamo, ottocenteschi a strisce bianco e nere, incatenati, tenuti in posti in cui ci sono 40 gradi all'ombra l'estate, all'aperto, sotto delle reti e cose del genere. Arpaio non vuole saperne di andar via, è in atto una campagna appunto che dice ne abbiamo abbastanza di arpaio, le associazioni locali, le associazioni diciamo degli immigrati della zona stanno cercando in tutti i modi di evitare che ci sia una nuova elezione. Il problema è che quelli sono territori in cui la questione migratoria è sentita molto fortemente, dove la destra fa, cosiddetta destra nativista, fa sentire il suo peso. Tra l'altro in questo contesto si segnala un'iniziativa dei repubblicani denunciata anche dalle associazioni antirazziste che dicono come i repubblicani abbiano costruito in quella zona una pubblicità, come dire, menzognera, propaganda menzognera, nel senso che sono arrivati a fare dei manifesti, dei volantini in due lingue, in spagnolo e in inglese. Nella versione spagnolo, guarda caso, la data indicata per le elezioni non era il 6 novembre, ma novembre, cioè era due giorni dopo che i seggi si sarebbero chiusi. Ovviamente, insomma, la cosa può far ridere, ma stiamo anche parlando e pensando a una popolazione non fortemente informata o alfabetizzata, che sa che ci sono le elezioni, ma che magari non ha ben preciso idea di quando avvengano. E una delle condizioni per cui si debba andare a votare, magari chiedere preventivamente un permesso al lavoro. Negli Stati Uniti non è esattamente come da noi, quindi non è che semplicemente uno va a votare e porta la scheda, magari deve prima, o magari la sua condizione di lavoro, no? È precaria, deve dichiarare, annunciare questo al datore di lavoro, il che vuol dire che si possono perdere molti voti. E quindi i repubblicani sono arrivati a fare questa cosa assolutamente scandalosa, che è stata denunciata, ma che spiega bene quale sia il clima insomma, che si registra da quelle parti. E ci sono, forse questo sarà interessante dopo martedì, appena ci saranno i dati, capire localmente cos'è accaduto, cioè in quegli stati in cui o per posti, diciamo, di questo tipo ci sono addirittura candidati neonazisti, che ne so, a fare i bibliotecari piuttosto appunto che gli sceriffi in mezza America, sia i governatori sia appunto i parlamentari, ce ne sono alcuni su posizioni assolutamente radicali. E quindi al di là di come va per la Casa Bianca, ci sono anche altre micropartite non altrettanto ma insomma comunque interessanti. L'ultima cosa, correndo perché temo che siamo in ritardo, però siamo tenuti come ciliegina sulla torta, viene dall'ultimo notiziario del Southern Poverty Law Center di Montgomery, che è appunto l'associazione fondata da Martin Luther King e che da allora, da 40 anni, fa il monitoraggio dell'estrema destra, che nella sua ultima mail, che è datata 30 ottobre, quindi stiamo parlando di due giorni fa, racconta di quanto una pletora, dice addirittura, di teorie della cospirazione che stanno infestando internet intorno alla super tempesta Sandy, come l'hanno chiamata, la superstorm, come l'hanno chiamata gli americani. E ce n'è un po' per tutti i gusti, cioè nel senso che ci sono, che ne so, il pastore John McTerman che se la prende con il popolo, le persone LGBT, e dice in qualche modo questa è una punizione, il governo ha promosso il matrimonio omosessuale, guarda caso è arrivata la tempesta, no? E questo è un tipo di cosa. Ce ne sono altri invece che hanno più un carattere, diciamo, esplicitamente razziale, cioè ci sono quelli che dicono questa tempesta è legata a una, diciamo, alla presenza di Barack Obama alla Casa Bianca, ma non perché è un nero, ma perché è un islamico, insomma, e quindi un paese cristiano che è governato da un musulmano, potete immaginare voi. E questo viene da una serie di personaggi, cioè adesso ci sono alcuni nomi: Alex Jones, Cast Nimmo e Infowars, che è una newsletter, diciamo, di questo tipo di tendenza. Ma c'è perfino uno dei responsabili, il portavoce si chiama Cam Edwards, della National Rifle Association, cioè l'associazione dei produttori di armi, che tra l'altro non sapevo, ho scoperto la scorsa settimana premia ogni anno il proprio artista country preferito, per cui possiamo annunciare che agli ascoltatori della radio, se interessati, potremo ammollare, diciamo, in ascolto prossimamente uno dei vincitori della, che ha fatto una canzone proprio su quanto è bello. Tieni la tua, il tuo fucile lucido, ecco, che non è un po' più tenso, ma è proprio quella roba lì, insomma, oli alla canna e vai così. Insomma, questo rappresentante dei costruttori di armi che ha parlato al Glenn Beck Show, che è uno show trasmesso dalla Fox News, quindi siamo nel cuore, diciamo, della comunicazione dei conservatori, che ha, diciamo, ovviamente parlato di come queste vicende, citando già Katrina, abbiano molto a che fare con quello che succede nel paese quando si sequestrano le armi. Perché in realtà il punto non è tanto che questa, diciamo, la tempesta è accaduta perché appunto il governo vuole restringere le leggi sulle armi, ma perché una volta che succedono queste cose i cittadini disarmati non si possono difendere, e quindi chiaramente il punto è che appunto dopo una cosa del genere, se le persone fossero tutte armate, non succederebbe niente. In realtà le notizie che arrivano in particolare da New York dicono che non ci sono stati particolari atti di sciacallaggio, e le persone che cercavano magari di rubare qualcosa negli appartamenti devastati sono state arrestate, quindi diciamo che non c'è una situazione da far west rispetto a queste vicende qui. E questa è un po' la situazione. E ovviamente poi, per finire, il Southern Poverty Law Center segnala come tutti i giorni, questo lo possono fare anche, diciamo, gli ascoltatori della radio che dispongono di Parabola, vedere quello che dice il canale Fox News, appunto, di Murdoch, cioè la vera quinta colonna dei repubblicani nel mainstream dell'informazione, che praticamente mescola tutti i giorni notizie su quello che sta succedendo e diciamo il clima economico e sociale del paese, quasi mescolando i dati sui danni che sono in New Jersey a quelli sulla disoccupazione, quasi a far pensare, diciamo, nell'esito che c'è nella comunicazione, che in qualche modo tutto coincide, che visto che Obama è alla Casa Bianca ed è a lui che si devono le non buone notizie in economia, forse anche a lui si devono le non buone notizie per quanto riguarda il meteo e in generale i disastri naturali. Ecco, questa è un po' la chiosa dell'associazione antirazzista, che dice, insomma, questo è un mondo di pazzi, però è un mondo di pazzi pericolosi e talvolta anche con molti soldi e capace di arrivare a tanta gente.